alfin Rinaldo reso al campo europeo. Tu non sai quanto atteso giungi e sospirato e pianto. Oh, caro amico, oh, amabile soggiorno, quanto rimiro intorno tutta la mia raviva già languida virtù. Nell'ozio avvolto quanto finor perdesti il tuo valore a compensar sapresti.